ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Amore, baciami, arrivederci, amore, baciami, e se mi penserai, ricordati che amo te, ti ricordi quella sera? E per gioco ti baciai, sembrava solo un'avventura, un'avventura arriva mai. Ti baciavo nel silenzio, non volevo confessare che stavo forse a poco a poco innamorandomi di te. Oh.